Letture di Radio 24. C'è quella che sembra la porta di un campo di calcio e quella arredata come un salotto con tanto di tende e divano. Sono i Transit Shelter Displays, ovvero le pensiline delle fermate degli autobus trasformate in messaggi pubblicitari, messaggi che difficilmente passano inosservati. L'ultima in ordine di follie è una borsa a sacchetto che somiglia a un pacco di cartone di un computer nuovo. In pratica, se la indossi, somiglia a uno che si porta presso il neo acquisto informatico. In teoria, invece, te la spassi in giro con la borsa più cool del momento. Ultima in ordine di follie, segnaliamo una carrellata di borsette pazze e creative in cui la fotografia fa da protagonista come immagine d'inganno. Penultima delle follie, un tutorial che spiega come manipolare falsamente le immagini artistiche di autori famosi in modo che queste risultino autentiche alla vista. Segnalata speciale, una 27enne dal gusto noir, Sarol Taban. Il luogo dove accadono queste folli visioni e dove si risolvono problemi di estetica virtuale, di creatività psicanalitica quasi, si chiama Bored Panda. Il claim del sito, Only for Bored Pandas, sta diventando il punto di riferimento dei creativi di mezzo mondo alla scoperta di follie e assurdità. Esempi ulteriori sono le immagini che compaiono in homepage del magazine in questi giorni. Manifesti in stile guerriglia destinati a luoghi delle città, in cui il cittadino viene sostanzialmente assalito dalla pubblicità. Le fermate degli autobus quindi si trasformano. Il manifesto pubblicitario accoglie le persone al suo interno, tra il vetro e la carta dove è stampato il manifesto stesso, oppure rovescia cose addosso alle persone. Ad Amsterdam un produttore di latte ha posizionato enormi cisterne a forma di cartone del latte, da cui all'occasione ci si può anche servire. Il manifesto tenta di uscire dal suo contenitore nella pubblicità della Wonderbra, in cui il seno della modella preme il vetro talmente tanto da incrinare il vetro che ricopre la pensilina. Oppure il cartellone pubblicitario è studiato apposta perché chi si siede abbia dietro, disegnata intorno alla testa, una capigliatura riccia e nera in stile anni 70 Flower Power, senza rendersene conto. Le aziende che in Italia sembrano così poco coraggiose nello spingersi oltre le solite banali creatività, sembra che all'estero diano il meglio di sé. C'è da domandarsi sempre ancora il perché. Autoironia innanzitutto. Anche da parte di Amnesty International, per esempio, che propone immagini che cambiano, immagini di violenza sulle donne, quando un sensore si accorge che chi aspetta il bus sta guardando il manifesto stampato al suo fianco. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cristina Tagliabue, Indispensabilmente utili, ma creativi, dal settimanale Nova, allegato al Sole 24 Ore del 21 ottobre. Letture di Radio 24. Nel 2006 Francesco Nuti, attore e regista popolarissimo negli anni 80 e 90, cade e si ferisce gravemente alla testa. Saranno necessarie 3 operazioni al cervello per salvarlo. Dimenticato dai media, ma non dal suo pubblico, che non ha mai smesso di amarlo, ora Nuti viene ricordato in un documentario presentato al Festival Internazionale del Film di Roma. Nessuno l'ha dimenticato, ma il pudore, spesso colpevole verso la malattia e il dolore, hanno fatto calare sulla sua storia un silenzio attonito. Gli amici, i colleghi, il pubblico sanno che dal dicembre 2006 Francesco Nuti sconta una punizione ingiusta. Uno di quei castighi che nessuno merita e invece piombano da un attimo all'altro, buttando all'aria le vite dei più sfortunati. La caduta in casa, l'emorragia cranica, il coma, l'operazione e poi l'inizio di un'esistenza a metà. Una fatica immensa divisa con la madre, con il fratello medico Giovanni, con pochi affetti, tra cui il regista Giovanni Veronesi, che non ha mai smesso di stargli accanto, ma soprattutto con se stesso. Da quella notte l'autore non parla più. «Ho provato», confessa Giovanni, «un sentimento nuovo e forte, il compito di ridare voce a mio fratello, compito impossibile per il medico, possibile solo se compreso sul piano generale e simbolico. Sì, perché mi sono accorto che al silenzio di Francesco corrisponde un silenzio più forte, il silenzio del mondo del cinema e dell'editoria musicale, che forse non si è accorto davvero dell'autore che lui rappresenta, che sembra averlo dimenticato, rimosso, come dicono alcuni, con una rapidità intollerabile». Tra 2 settimane, con il documentario di Mario Canale, Francesco Nuti e Vengo da lontano, il Festival di Roma riaccende i riflettori sulla parabola dell'artista. Nel programma della rassegna c'è scritto che all'evento parteciperà anche lui, il protagonista, per la prima volta in pubblico dopo l'incidente, anche se chi lo assiste dice che la sua presenza non sarà certa fino all'ultimo minuto. Quel giorno ad applaudirlo ci saranno tutti, magari in piedi, magari con le lacrime agli occhi, compresi i tanti che lo hanno dimenticato, eppure quelli che negli anni difficili gli hanno sbattuto la porta in faccia. Nuti non è mai stato un personaggio facile, di quelli che semplicemente si fanno amare da tutti. Aveva i suoi fan, ma anche i suoi detrattori. C'era chi non gli aveva mai perdonato il grande salto dietro la macchina da presa, la tentazione, come scriveva l'ex critico della Stampa Stefano Reggiani nel suo dizionario del post-divismo, di diventare un improbabile malincomico internazionale. E poi l'aria un po' sbruffona da ragazzo di provincia, il narcisismo dell'attore arrivato e le donne, tante, tutte bellissime, prese, lasciate, cambiate al ritmo di un giro tondo spensierato. Da Clarissa Barta ad Anna Maria Malipiero, madre dell'unica figlia Ginevra, passando per le interpreti dei suoi film su cui fiorivano sempre, vere o false che fossero, voci di amori turbolenti. Dall'inizio degli anni Ottanta alla metà dei 90, Francesco Nuti, nato a Firenze nel 55, dal barbiere Renzo, detto il Casanova, e da mamma Anna, che in questi ultimi anni se l'è curato come se fosse tornato bimbo, ha vissuto la sua stagione d'oro. Dai primi successi con i Giancattivi, all'esordio nel cinema, diretto da Maurizio Ponzi in Madonna che silenzio c'è stasera, ai film da regista e interprete, dove metteva in gioco tutto se stesso, con fortune alterne. Il documentario ricostruisce le cronache dal set, la nascita dei tormentoni e delle gag, la passione per la musica, che lo portò sul palcoscenico di Sanremo con il brano Sarà per te. Roberto Benigni, che per lui è sempre stato una specie di fratello maggiore, diceva che era rimasto monello e che nei confronti della vita era generosissimo, la sperperava, era uno scialo. L'inizio della fine ha una data, 1994, e un nome preciso, Occhio Pinocchio, il colossal prodotto da Cecchi Gori e ispirato all'eroe di Collodi, incappato in una serie nera di difficoltà realizzative, tagliato, rimontato e alla fine stroncato dalla critica. Nuti non regge il colpo, si infila nel tunnel della rabbia e dell'infelicità, inizia a bere, si confessa in pubblico, convoca disperate conferenze stampe in cui implora un lavoro. Cose proibite, soprattutto quest'ultima, dalle leggi dello show business che impongono una maschera di benessere perenne. Se non ce la si fa a portarla, meglio eclissarsi piuttosto che far sapere che stai male. Nel documentario, spiegano gli autori Mario Canale e Anna Rosi Morri, ci sono la sua permalosità e la sua generosità, poi le prime sconfitte e la difficoltà di accettarle, gli errori e le invidie, l'insicurezza e la sfortuna e alla fine il silenzio che abbiamo voluto rompere perché Francesco è vivo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fulvia Caprara Basta silenzio, Nuti è con noi, dalla Stampa del 21 ottobre. Nei giorni scorsi, un'inchiesta del Wall Street Journal aveva rivelato i pericoli che si annidano nei social network, dopo la scoperta che alcune delle aziende che li producono vendono i dati degli utenti per fini di marketing. Per impedirlo basterebbe bloccare l'accesso ai cookies, ma per farlo ci vorrebbe una legge. Le molte preoccupazioni sulla privacy e la rete sono ovviamente motivate e sostenute da argomenti convincenti. Ma allo stesso tempo è evidente che parecchi, soprattutto le giovanissime generazioni, sono preoccupati in maniera relativa della loro privacy. Infatti, pur considerandola sacra, nutrono un atteggiamento tendenzialmente ottimista nei confronti delle aziende digitali che, soprattutto su internet, hanno accesso ai loro dati personali. Tutte le aziende, Facebook in testa, proclamano la loro buona fede, la volontà di non mettere le mani sui dati personali senza il beneplacito degli utenti e via discorrendo. In realtà, però, la gestione dei dati personali e lo scambio di questi con le aziende che fanno pubblicità in rete è il cuore del loro business. Lo hanno ammesso qualche giorno fa la Microsoft, America Online, Yahoo e molti altri al congresso statunitense, dicendo che se bloccassero l'accesso ai dati che avviene tramite i cookies, i piccoli software che consentono ai diversi siti di sapere cosa facciamo, cosa abbiamo visto, che pagine visitiamo, sarebbe difficilissimo continuare a creare messaggi di pubblicità personalizzati. Servono dunque nuove regole e al più presto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ernesto Assante Facciamo la legge per difendere privacy e business, dal venerdì di Repubblica del 22 ottobre.